E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Al microfono come sempre il vostro Jean-Luc, altra band ospite in studio dal Bresciano, una formazione molto particolare che è venuta a presentarci il suo disco. Ragazzi, a voi la parola per le presentazioni. Ciao a tutti. Ciao a tutti, siamo Ciao. Di Lines. Allora, io sono Lorenzo. Riccardo. Io sono Fabiano, sono il batterista. Stefano alla voce. Con i Divines, il solito momento vintage iniziale, con una prima parte dedicata al progressive rock in varie sfumature. Prima canzone era degli Hawking, tratta dal disco live Space Ritual del 1973 ed intitolata Lord of Light. In questa formazione vi erano Robert Calvert, carismatico cantante, e soprattutto Lemmy, poi fondatore di Motorhead. Gli Hawking vengono considerati progenitori di moltissimi generi attuali. Voi che ne pensate alla luce di quel che avete ascoltato? Beh, diciamo che senza dubbio quella che abbiamo sentito è una canzone davvero interessante. Non ci stupiamo che gli Hawking siano considerati tra, diciamo, i progenitori di molti generi attuali. Se non sbaglio sono in attività da più o meno 40 anni, certo. E hanno un bagaglio di esperienza e sperimentazione davvero grosso. Di conseguenza, diciamo, cioè, sono stati da ispirazione a moltissime band odierne. Non per niente, tra l'altro, vantano ex membri illustri come Lemmy dei Motorhead oppure il batterista dei Cream, Ginger Baker. Un sunto della vostra storia e il significato del vostro nome. Ah, allora noi... Bella domanda. Bella domanda. No, noi nasciamo più o meno nel 2007, però la formazione era diversa. All'inizio abbiamo creato questo progetto pensando di fare un progetto più elettronico, dove c'era voce, chitarre distorte, però comunque era un progetto elettronico, tutta la parte ritmica era affidata ai campionatori, a basi preparate con computer e tutto. Alla fine di tutto il progetto ci sembrava molto freddo, il suono usciva diretto e non c'era molta dinamica, quindi abbiamo cercato la soluzione, che è stata quella di aggiungere una batteria reale, quindi il nostro buon Fabiano ci ha aiutato, e anche col basso reale che non c'era prima abbiamo risolto un po' dei problemi della dinamica, ecco, quindi i pezzi adesso sono un po' più morbidi e riescono a soddisfare più le esigenze forse del rock che dell'elettronica. Si continua con Emerson, Aiken, Palmer, il trio prog delle meraviglie, in un brano tratto da disco Brain Salad Surgery del 1973 dal titolo Carnival 9. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass stands a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. Rest assured, you'll get your money's worth. Greatest show in heaven, hell or earth. You gotta see the show. It's a dynamo. You gotta see the show. It's rock and roll. Thank you. Dixieland, Dixieland. Emerson è stato tra i primi a usare il sintetizzatore dal vivo. Secondo voi ha ancora influenza sui musicisti di oggi che cercano soluzioni elettroniche? Beh, senza dubbio. Cioè, ora il mercato della musica è cambiato molto dagli anni 70 e quindi necessita di soluzioni diverse, diciamo, più moderne, più all'avanguardia. Ma penso che le scelte artistiche di un maestro come Emerson, cioè, non possano essere definite obsolete, nemmeno con i tempi che corrono. Anche per il fatto che, diciamo, che molte band attuali, cercando soluzioni sonore sempre nuove, in fin dei conti alla fine si ritrovano a scavare nel passato, diciamo, a cercare di resuscitare dei sound fuori moda da un pezzo, magari cercando di riadattarli alle richieste del mercato odierno. Vostre esibizioni live, come sono andate finora e quali le reazioni a caldo del vostro pubblico alla fine di esse? Le esibizioni per ora stanno andando davvero bene. Siamo ultra carichi, diciamo, dalla recentissima uscita dell'album, che è uscito circa 2-3 settimane fa. E diciamo che i live rappresentano in questo caso una vera e propria valvola di sfogo. Abbiamo cominciato un piccolo tour promozionale da poco, abbiamo fatto la prima data settimana scorsa e insomma questo tour ci vedrà impegnati per qualche mese e cercheremo di diffondere il più possibile la voce del nostro disco Kill Me Martina. Per ora abbiamo avuto, diciamo, una buona risposta dal nostro pubblico e che, diciamo, oltre agli affezionati che vengono sempre a sentirci, conosciamo molta gente nuova e ci teniamo molto a suonare in posti diversi per cercare di non entrare nella solita routine di date e riuscire a farci notare. Infatti al giorno d'oggi si vendono dischi quasi unicamente nella dimensione live. È una triste verità. Per chiudere questa parte, un brano degli Yes, dal fortunato disco Fragile del 1972, primo con la formazione classica all'innesto di Rick Wakeman alle tastiere, Long Distance Runaround.